Capitolo 12. Ripensamenti. Gilbert ebbe le sue 2 settimane di caccia al beccacino in Nova Scozia. Nemmeno Anna avrebbe potuto convincerlo a stare un mese. E novembre incombeva su Ingleside. Le scure colline con i loro abeti rossi scuri allineati guardavano tristemente calare la notte precoce, ma Ingleside splendeva allegramente con il fuoco nel camino e le risate, benché i venti che entravano dall'Atlantico cantassero di tristi cose. «Perché il vento non è felice, mamma?» chiese una sera Walter. «Perché si sta ricordando di tutto il dolore del mondo, dall'inizio dei tempi», rispose Anna. «Oh, è giusto lamentarsi, perché c'è tanta umidità nell'aria», sbuffò zia Mary. «La mia schiena mi sta uccidendo». Per alcuni giorni il vento soffiò allegramente attraverso l'argenteo bosco grigio di aceri. In alcuni giorni invece non c'era per niente, c'era solo il sole maturo dell'estate indiana, le quiete ombre degli alberi spogli su tutto il prato e una gelida quiete al tramonto. «Guarda la stella bianca della sera sul pioppo nell'angolo», disse Anna. «Ogni volta che vedo una cosa così bella mi sento felice solo perché sono viva». «Oh! Dici tali bizzarrie, Annie? Le stelle sono abbastanza comuni qui da noi nell'isola», disse zia Mary e pensò: stelle davvero, come se nessuno avesse mai visto una stella prima. Non sa Annie del terribile spreco che c'è in cucina tutti i giorni? Non sa dell'uso sconsiderato che Susan Baker fa delle uova e usa lo strutto dove il grasso andrebbe altrettanto bene? Oppure non se ne cura? Povero Gilbert, non c'è da meravigliarsi, è completamente sotto scacco. Novembre si esaurì nel grigio e nel marrone, ma una mattina la neve aveva tessuto la sua antica bianca magia e Jem, gridando di gioia, si precipitò giù per la colazione. «Oh, mamma, mamma, presto sarà Natale e arriverà Santa Claus!» «Certamente non crederai ancora in Santa Claus», disse zia Mary. Anna lanciò uno sguardo d'allarme a Gilbert, il quale disse gravemente: «Vogliamo che i bambini abbiano il loro patrimonio del paese delle fate finché è possibile, zia». Fortunatamente Jem non aveva prestato nessunissima attenzione a zia Mary. Lui e Walter erano troppo ansiosi di uscire nel nuovo meraviglioso mondo dove l'inverno aveva portato la propria bellezza. Anna aveva sempre odiato vedere la bellezza della neve pestata, rovinata da orme. Ma se ciò proprio non poteva essere evitato, c'era ancora la bellezza che restava disponibile sul far della sera, quando l'Occidente era in fiamme, su tutte le valli imbiancate e le colline viola. Anna, seduta in salotto, davanti alle fiamme di un acero canadese, pensando a come la luce del fuoco era sempre così tanto affascinante, ammirava il tramonto. Talmente giocosa e imprevedibile entità il fuoco. Parti della stanza balenavano con dentro la vita che un attimo dopo usciva. Immagini andavano e venivano, ombre stavano in agguato e balzavano fuori attraverso la grande finestra, priva di scuretto. L'intera scena della stanza era riflessa elficamente sul prato, con zia Mary apparentemente seduta, austeramente dritta. Zia Mary non si era mai permessa di rilassarsi sulla sedia, sotto il pino silvestre. Gilbert si stava rilassando sul divano, cercando di dimenticare che aveva perso un malato di polmonite quel giorno. La piccola Rilla stava cercando di mangiare i suoi pugni rosa nella sua cestina e c'era anche Gamberetto che, con le bianche zampette arricciate sotto il petto, aveva il coraggio di fare le fusa sul tappeto del caminetto con grande disapprovazione di zia Mary. «Parlando di gatti», disse zia Mary pateticamente, anche se nessuno aveva parlato di loro, «tutti i gatti di Glen vengono a farci visita durante la notte? Non riesco davvero a capire come qualcuno possa aver dormito la scorsa notte con tutto quel miagolare. Naturalmente la mia stanza è sul retro e credo di ottenere tutti i benefici da quel concerto gratuito». Prima che qualcuno replicasse, Susan entrò dicendo che aveva visto Mrs. Marshall Elliott nel negozio di Carter Flagg e che sarebbe passata per una visita finita di fare la spesa. Susan non aggiunse che Mrs. Elliott aveva detto con ansia: «Cosa c'è che non va alla signora Blythe, Susan? Domenica scorsa in chiesa appariva stanca e preoccupata». Non l'avevo mai vista così prima d'ora. Oh, posso dirvi che cosa c'è che non va alla signora Blight, rispose cupamente Susan. Ha avuto un brutto attacco di una malattia chiamata zia Mary, e il dottore sembra non vedere, anche se adora il terreno sul quale la moglie cammina. Tipico di un uomo, disse Mrs. Elliot. Sono contenta, disse Anna alzandosi per accendere una lampada. Non vedo Cornelia da così tanto tempo. Vorrei ascoltare qualche suo pettegolezzo. Se no, che cosa? Gilbert disse con una punta di ironia. Quella donna è una pettegola maligna, disse zia Mary con severità. Per la prima volta nella sua vita, forse, Susan rizzò il pelo in difesa di Miss Cornelia. Questo non è vero, Miss Blight. E Susan Baker non ci sta a sentire come lei la definisce. Maligna o qualcosa del genere. Si potrebbe dire, Miss Blight, da che pulpito arriva la sentenza? Oh, Susan, Susan, disse Anna implorante. Chiedo scusa, signora dottora cara. Devo ammettere che ho dimenticato qual è il mio posto, ma ci sono alcune cose che non si possono sopportare. Dopodiché la porta fu sbattuta e le porte erano raramente sbattute a Ingleside. Visto, Annie? Disse zia Mary in modo significativo. Ma credo che se alla lunga si è disposti a ignorare cose del genere da parte di una domestica, non ci si dovrà stupire per quello che succederà. Gilbert si alzò e andò in biblioteca, dove un uomo stanco può sempre contare su una certa pace. Zia Mary, alla quale non piaceva Miss Cornelia, se ne andò a letto. Così, quando Cornelia entrò, trovò Anna sola, china piuttosto fiaccamente sulla cesta della bambina. Cornelia non iniziò come faceva di solito a sciorinare il suo carico di pettegolezzi. Invece, dopo aver messo da parte i suoi pacchetti, si sedette accanto ad Anna e le prese la mano. Cara Anna, qual è il problema? So che c'è qualcosa. È quella allegra vecchia anima di una Mary che ti tormenta a morte. Oh, Anna cercò di sorridere. Oh, Cornelia, so di essere sciocca nel farmi tanti problemi, ma questo è stato uno dei giorni in cui sembrava proprio che non potessi continuare a pazientare con lei. Lei sta semplicemente avvelenando la nostra vita qua. Perché non è sufficiente dire di andarsene? Oh, non possiamo farlo, Cornelia, almeno io non posso e Gilbert non vuole. Lui dice che non si potrebbe più guardare in faccia se mandasse fuori di casa la propria carne e il proprio sangue. Santo cielo! Disse Cornelia in modo eloquente. Ha abbastanza soldi e una buona casa di sua proprietà. Come non metterla fuori di casa e dirle che sarebbe meglio che andasse a vivere là? Lo so, ma Gilbert non credo che si renda conto proprio di tutto. Lui è sempre via e in realtà, singolarmente, sono piccole cose e mi vergogno. Lo so, cara, proprio quelle piccole cose che sono terribilmente grandi. Naturalmente un uomo non riesce a capire. Una donna in Charlottetown che la conosce bene dice che Mary Blight non ha mai avuto un'amicizia nella sua vita. Dice che il suo nome dovrebbe essere Blight come piaga, non Blight come è scritto il vostro cognome. Quello che ci vuole, cara, è la fermezza necessaria per dire che non vuoi più sopportare tale situazione. Oh, mi sento come in uno di quei sogni dove si cerca di correre e non si può e si riesce solo a trascinare i piedi. Disse Anna tristemente. Se solo accadesse di tanto in tanto, ma è tutti i giorni, tutti i giorni, e i pasti ora sono degli orrori. Gilbert dice che non può più tagliarsi l'arrosto. Questo l'ha notato, sbuffò Miss Cornelia. Non possiamo mai avere delle vere conversazioni durante i pasti, perché lei sicuramente dirà qualcosa di spiacevole ogni volta che qualcuno parla. Corregge continuamente i bambini per il loro modo di fare e richiama sempre l'attenzione sui loro difetti davanti agli ospiti. Eravamo soliti fare dei pasti tanto piacevoli e ora lei si risente per le risate e tu sai quanto ci piaceva ridere. Qualcuno era sempre pronto a fare uno scherzo o a subirlo. Lei non lascia passare nulla. Oggi ha detto: Gilbert, non essere così accigliato, hai litigato con Annie? Solo perché eravamo silenziosi. Sai che Gilbert è sempre un po' depresso quando perde un paziente che pensava potesse ancora vivere. E poi ci ha impartito una lezione sulla nostra follia e ha ammonito a non lasciare che il sole tramonti sulla nostra ira. Oh, ne abbiamo riso in seguito, ma ha Al momento no, per niente. Lei e Susan non vanno d'accordo e non possiamo trattenere Susan da borbottare commenti quando sono il contrario di cortesi. E ha borbottato parecchio quando zia Mary disse che non aveva mai visto un bugiardo come Walter, perché lo aveva sentito raccontare a Dee una lunga storia circa l'incontro avuto con l'uomo della luna e di quello che si erano detti. Gli voleva lavare la bocca con l'acqua e sapone. Lei e Susan quella volta ebbero una violenta discussione. Sta riempiendo la mente dei bambini con ogni sorta di idee raccapriccianti. A Nana ha raccontato di un bambino che era cattivo e morì mentre dormiva, e ora Nana ha paura di andare a dormire. A Dee ha detto che se fosse sempre stata una brava ragazza, i suoi genitori sarebbero arrivati ad amarla così come amavano Nan, anche se lei aveva i capelli rossi. Oh. Gilbert era veramente arrabbiato quando l'ha saputo e le ha parlato in modo deciso. Non ho potuto fare a meno di sperare che la prendesse come un'offesa e se ne andasse, anche se mi dispiacerebbe che ci fosse qualcuno che lascia la mia casa perché è offeso, ma è successo solo che quei suoi grandi occhi azzurri si sono riempiti di lacrime dicendo che non voleva fare alcun danno, che aveva sempre sentito dire che i gemelli non sono amati nella stessa misura e aveva pensato che avevamo favorito Nan e che la povera Dee lo percepiva. Ha pianto tutta la notte su ciò e Gilbert, pensando di aver fatto una cattiveria, si è scusato. E ne è stato capace, disse Cornelia. Oh, non dovrebbe parlare in questo modo, Cornelia. Quando conto le mie misericordie, mi sembra meschino preoccuparmi di queste piccole cose. Ma se ho un po' offuscato l'orizzonte della mia vita, lei non è sempre odiosa, a volte può essere anche piacevole. Non mi dire, disse Cornelia con sarcasmo. Eh sì, è gentile. Mi aveva sentito dire che voleva un servizio da tè pomeridiano e allora è andata a Toronto e me ne ha fatto avere uno per corrispondenza. Oh, Cornelia, è così brutto. Anna scoppiò in una risata che si concluse in un singhiozzo e poi si mise a ridere di nuovo. Ora non parliamo più di lei, non sembra così male, ora che ho spifferato tutto quanto fuori come una bimbetta. Guarda la piccola Rilla, Cornelia. Non sono un amore alle sue ciglia quando dorme. Oh, lasciamoci ora andare. Ha dei buoni sani pettegolezzi. Anna era di nuovo se stessa quando Cornelia se ne andò. Tuttavia, si era seduta con aria pensierosa per un po' davanti al suo fuoco. Non aveva detto tutto a Cornelia. E non aveva mai detto niente a Gilbert. C'erano tante piccole cose. Così piccole che non posso lamentarmi di loro, pensò Anna. E però sono le piccole cose che scavano i buchi nella vita come tarme, rovinandola. Zia Mary, con la sua mania di recitare da padrona di casa. Zia Mary che invita ospiti senza mai dire una parola su di loro finché non arrivano. E mi fa sentire come se io non appartenessi alla mia casa. Zia Mary che sposta i mobili quando Anna è fuori. Oh, spero che non ti dispiace, Annie. Ho pensato che avevamo bisogno della tavola molto più qui che in biblioteca. L'insaziabile curiosità infantile di zia Mary su tutto, le sue domande a bruciapelo, su questioni intime. Entra sempre nella mia stanza senza bussare. Sente odore di fumo, sempre a sprimacciare il cuscino che ho schiacciato. Sempre a insinuare che io spettegolo troppo con Susan. Sempre a rimproverare i bambini. Dobbiamo essere continuamente attenti a loro per far sì che si comportino bene e non sempre ci riusciamo. Brutta vecchia zia Maia, aveva detto Shirley un terribile giorno, con molta chiarezza. Gilbert stava andando per sculacciarla, ma Susan, insorgendo con indignata maestà, lo proibì. Siamo spaventati, pensò Anna. Questa famiglia comincia a ruotare attorno alla domanda: piacerà a zia Mary? Noi non lo vogliamo ammettere, ma è la verità. Qualsiasi cosa piuttosto che asciugare via le sue nobili lacrime. Così non si può andare avanti. Anna poi si ricordò quello che aveva detto Cornelia, che Mary Blight non aveva mai avuto un amico. Che cosa terribile. Fuori dalla sua propria ricchezza di amicizie, Anna aveva sentito un improvviso moto di compassione per questa donna che non aveva mai avuto un amico, che non aveva niente davanti a sé se non una solitaria, irrequieta vecchiaia, con nessuno che andava da lei per guarirla o per farle compagnia, o come speranza, o sostegno, calore, amore. Sicuramente sarebbe stato possibile avere pazienza con lei, Questi disturbi erano solo superficiali, dopo tutto. Non si potevano avvelenare le più profonde sorgenti della vita. Ho appena avuto un terribile spasmo di dispiacere per me stessa, niente di più, disse Anna, raccogliendo Rilla dalla sua cesta ed emozionandosi per quella piccola tonda guancia di raso che accarezzava la sua. Adesso è finita e mi sento piena di sana vergogna. Capitolo 13. Olio di ricino. Mi pare che non abbiamo inverni come quelli di prima, vero mamma? Disse Walter cupamente. La neve di novembre se n'era andata da molto tempo e per tutto dicembre Glen St. Mary fu una terra nera e cupa, bordata da un grigio golfo punteggiato da arricciate creste di schiuma color bianco ghiaccio. C'erano stati solo alcuni giorni soleggiati, quando il porto aveva scintillato tra le dorate braccia delle colline. Il resto era stato arcigno e duro. Invano gli abitanti di Ingleside avevano sperato nella neve per Natale, ma i preparativi continuavano regolarmente. E mentre volgeva al termine l'ultima settimana, Ingleside era piena di mistero e di segreti e di sussurri e profumi deliziosi. Dunque, alla vigilia di Natale, tutto era pronto. L'abete che Walter e Gemma avevano portato su dalla conca era in un angolo del soggiorno. Le porte e le finestre erano adorne con grandi ghirlande verdi legate con enormi fiocchi di nastro rosso. La ringhiera era intrecciata di agrifoglio e la dispensa di Susan era piena fino all'orlo. Poi, nel tardo pomeriggio, quando tutti si erano rassegnati a uno squallido verde Natale, qualcuno, guardando fuori dalla finestra, vide grandi fiocchi bianchi come piume cadere fitti fitti. La neve! La neve! La neve! Gridò Gemma. Un bianco Natale alla fin fine, mamma! I bambini di Ingleside andarono a letto felici. Era così bello rannicchiarsi in un letto caldo e accogliente e intanto ascoltare fuori la violenta tempesta nella notte cupa e nevosa. Susan e Anna andarono nel cantiere dell'albero di Natale per terminare di addobbarlo. Si comportano come due bambine, pensò zia Mary con disprezzo. Lei naturalmente non approvava le candele su un albero. Supponiamo che diano fuoco alla casa. Lei non approvava le palline colorate. Supponiamo che le gemelle ne mangino una. Ma nessuno badava a lei. Avevano imparato che quella era l'unica condizione nella quale la vita con la zia Mary era vivibile. Finito! Gridò Anna, subito dopo aver legato la grande stella d'argento in cima al superbo piccolo abete. Oh, Susan, non ha un aspetto splendido? Non è bello che possiamo essere nuovamente tutti bambini a Natale senza vergogna? Oh, sono così contenta che la neve sia arrivata, ma spero che la tempesta domani mattina sia finita. La tempesta continuerà per tutto il giorno domani, disse zia Mary decisamente. Lo dice la mia povera schiena. Anna attraversò il corridoio, aprì la grande porta frontale e guardò fuori. Il mondo era perso in una bianca passione di neve. I vetri delle finestre erano grigi per la neve accumulata e il pino silvestre era un enorme fantasma avvolto nel suo lenzuolo. Non sembra molto promettente, ammise Anna mestamente. E il tempo lo gestisce ancora Dio, signora dottora cara, non la signora Mary Blight, disse Susan da sopra la sua spalla. Oh, spero che non ci siano chiamate per i malati almeno stasera, disse Anna mentre si allontanava. Susan diede uno sguardo d'addio nell'oscurità prima di chiudere fuori la notte tempestosa. Tu non devi avere bambini per stanotte, ammonì oscuramente in direzione di Upper Glen, dove Mrs. George Drew era in attesa del quarto. A dispetto di zia Mary, la tempesta aveva speso tutto nella notte e la mattina inondava il vuoto innevato tra le colline con il rosso vino di un'alba infernale. Tutti i bimbi si alzarono presto con gli occhi ben aperti e pieni di speranza. Santa Claus è riuscito ad arrivare con la tempesta, mamma? No, lui è malato e non ha osato provarci, disse zia Mary, che era di buon umore. Secondo lei era in vena di scherzi. Santa Claus è arrivato senza problemi, disse Susan, prima che i loro occhi si offuscassero, e dopo che avrete fatto colazione vedrete che cosa ha fatto con il vostro albero. Dopo la prima colazione, Papà misteriosamente scomparve, ma nessuno ci fece caso perché erano così presi con l'albero, un albero animato con tutte le palle d'oro e d'argento e le candele accese nella camera ancora buia, con i pacchi di tutti i colori legati con graziosi nastri ammucchiati tutti intorno. Poi apparve Santa Claus, un fantastico Santa Claus, tutto rosso con la pelliccia bianca e con una lunga barba e un tale stomaco enorme. Susan aveva imbottito con 3 cuscini la tonaca rossa di vellutino che Anna aveva cucito per Gilbert. Santa Claus distribuì tutti i doni con un allegro piccolo discorso per tutti, con una voce che risuonava stranamente familiare anche attraverso la maschera. E poi, proprio alla fine della pantomima, la barba prese fuoco da una candela e zia Mary ebbe una certa soddisfazione per il lieve incidente, anche se non abbastanza grave da impedirle di sospirare tristemente. Ahimè, il Natale non è più quello di quando ero bambina. Guardò con disapprovazione il dono che la piccola Elisabeth aveva mandato da Parigi per Anna, una graziosa piccola riproduzione in bronzo di Artemide dall'Arco d'Argento. Che svergognata donnaccia è quella? Domandò con severità. È la dea Diana? Disse Anna, scambiando un sorriso con Gilbert. Oh, una pagana! Beh, allora è diverso, credo. Ma se fossi in te, Annie, non la lascerei dove i bambini possono vederla. A volte comincio a pensare che la virtù chiamata pudore sia scomparsa da questo mondo. Mia nonna, concluse zia Mary con la deliziosa incoerenza che caratterizzava tante delle sue osservazioni, non portava mai meno di 3 sottogonne, inverno e estate. Zia Mary aveva lavorato a maglia dei copripolsi per tutti i bambini, di una terribile tonalità di magenta uguale al maglione di Anna. Gilbert ricevette una cravatta color bile e Susan una sottoveste di flanella rossa. Susan, anche se considerava le sottovesti di flanella rossa fuori moda, ringraziò zia Mary in maniera gentile. Un povero di una qualche missione può averne bisogno, pensò. 3 sottogonne, perbacco. Io mi onoro di essere una donna per bene, eppure mi piace quella donna dall'arco d'argento. Può non indossare molti vestiti, ma se avessi un corpo come il suo, non so fino a che punto avrei voglia di nasconderlo. Ah, ora devo andare a vedere il tacchino ripieno, anche se senza cipolla non sarà un granché. Quel giorno Ingleside fu solo felicità, semplicemente. Un bicchiere da cocktail pieno di felicità, nonostante le acidità di zia Mary, alla quale certamente non piaceva vedere la gente troppo felice. Solo carne bianca, per favore. James, mangia la tua minestra con calma. Ah, non tagli la carne come tuo padre, Gilbert. Lui sapeva come dividere la carne in modo che tutti fossero contenti. Gemelle, non ostacolate la conversazione degli adulti. Io sono stata educata con la regola che i bambini devono essere visti ma non sentiti. No, grazie, Gilbert, niente insalata per me. Io non mangio cibi crudi. Sì, Annie, prendo un po' di budino. Le torte con pezzi di frutta secca e aromi sono del tutto indigeste. Le torte con pezzi di frutta secca e aromi di Susan sono poesie, così come le sue torte di mele sono liriche, disse il dottore. Passamene una fettona di entrambe, vuoi, Anna, ragazza mia? Disse Gilbert a sua moglie. Annie, alla tua età ti piace davvero essere chiamata ragazza? Walter, non hai mangiato tutto il pane e burro? Ci sono tanti bambini poveri che sarebbero felici di averlo. James, caro, soffiati il naso e smettila. Non sopporto di sentire continuamente tirare su. Ma fu un vivace e delizioso Natale. E anche zia Mary si sciolse un poco dopo cena e disse quasi con grazia che il regalo ricevuto era piuttosto carino e persino sopportò Gamberetto con aria paziente di martire che fece sentire a tutti che lo amavano. Un po' di vergogna. Penso che i nostri piccoli hanno avuto una bella giornata, disse Anna felice quella sera, mentre guardava il motivo degli alberi intessuti sopra le bianche colline e il cielo nel crepuscolo. E i bambini fuori nel prato, intenti a disseminare briciole per gli uccelli sulla neve. Il vento sospirava dolcemente tra i rami. Le folate di nevischio sopra il prato erano le premesse di una tempesta per l'indomani. Ma Ingleside aveva avuto il suo Natale. Credo di sì, concordò zia Mary. Sono sicura comunque che di strilli ne hanno fatti abbastanza. E per quanto riguarda quello che hanno mangiato, beh, si è giovani una volta sola. E suppongo che tu abbia una buona scorta di olio di ricino in casa.